Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, Globetrotter 24, ancora un appuntamento tutto italiano. Valeria, ancora un appuntamento in giro per l'Italia, da nord a sud. Dove mi porti? Davvero da nord a sud questa volta, da un estremo all'altro. Trieste non è proprio l'estremo più a nord, però comunque è un estremo dell'Italia. Il mio è proprio l'estremo davvero. Ma non mi dirai ancora niente. No, non ti dico nulla. E allora, come ti dicevo, io ti accompagno a Trieste. Per raccontarvi Trieste ho scelto la musica di Lelio Luttazzi. Che siate di passaggio o che abbiate scelto Trieste come base per fare escursioni, la città merita tutta la vostra attenzione. È una città ordinata, forse fin troppo, un po' sulle sue, quasi altera, ma aperta, almeno alla vista. Non si sperticherà nell'accoglienza, ma se avete voglia di scoprirla, Trieste non vi deluderà. Io Trieste me la immagino sempre con il cielo azzurro spazzato dal vento che si riflette su Piazza Unità d'Italia, grandissima e discreta, una piazza che ha cambiato nome più volte, prima Piazza San Pietro, poi Piazza Grande, infine Piazza Unità nel 1918. Sarà per la posizione, diciamo che da qualche anno la piazza soffre per problemi di stagione, con il caldo si solleva in alcuni punti e allora bisogna intervenire per appianare queste gobbe. Forse bisognerebbe ristrutturarla tutta, ma come sempre è una questione di soldi. Sulla piazza si affacciano i palazzi dell'amministrazione, Palazzo della Luogotenenza Austriaca, sede della prefettura, Palazzo Stratti, Palazzo Modello, sede del municipio, Palazzo Pitteri, il Palazzo della Regione, da sempre di proprietà della compagnia di navigazione Lloyd Triestino. Con le spalle ai palazzi, sulla destra, si allunga in mare il molo Audace, che prende il nome dalla prima nave che riuscì a entrare nel porto di Trieste dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e l'annessione all'Italia. Salite sul colle San Giusto e vi troverete la chiesa più importante della città. Siete nel centro storico, medievale e dominate Trieste. La cattedrale ha una facciata molto semplice, forse un po' pesante, austera, ma non per questo meno affascinante. Colpisce il rosone, che è enorme, ed è opera di maestri scalpellini locali. Alle spalle della basilica c'è il castello di San Giusto. Ma non è l'unico castello che vale la pena di andare a vedere. Il castello di Miramare merita anche solo per la posizione. È a picco sul mare e quindi di fronte a un orizzonte senza limiti. Costruito a metà del 1800 per volere dell'arciduca Massimiliano d'Asburgo, con il preciso intento di abitarvi con la moglie, Carlotta del Belgio, nel castello confluiscono stili diversi che convivono con una certa armonia, aiutati anche dalla presenza del mare e della natura, perché intorno c'è un parco molto grande. Purtroppo gli eventi non permisero a questa coppia di godere di questa dimora per lungo tempo. A questo proposito Carducci scrisse Miramar. Addio castello, pe felici giorni, nido d'amore costruito in vano. Altra, sugli ermi oceani, rapisce aura gli sposi. Avete voglia di farvi accompagnare in tram a spasso per la città? Il tram di Opicina fa per voi. Da piazza Oberdan fin su in alto il panorama è servito. La fermata dell'obelisco è consigliata per chi vuole passeggiare lungo la via Napoleonica, che è una strada panoramica, che porta alla fine al santuario mariano, che per la sua forma, e che in effetti lo ricorda, viene chiamato dai triestini formaggino. Thank you. Finalmente me son decido, finalmente che son tornato, goccia pa l'aeroplan delle nove, son partì per la mia città. Se poi non avete paura di scendere in profondità, dovete andare alla Grotta Gigante. Si entra da una porta naturale e si comincia a scendere fino a 80 metri. La galleria è formata da un unico, spettacolare vano di 98 metri di altezza circa, 167 di lunghezza e 76 di larghezza. Stalagmiti, stalattiti, colate di carbonato di calcio, depositato dall'acqua piovana, tutto questo. La stalagmite più imponente è la colonna Ruggero, alta 12 metri. Al centro della caverna c'è la stazione di ricerca geofisica dell'Università degli Studi di Trieste per lo studio dei movimenti della crosta terrestre. Si risale poi attraverso il sentiero Carlo Finocchiaro per raggiungere un belvedere. Mi raccomando, portate con voi una felpa. A Trieste non potete mancare una sosta in uno dei caffè della città. Pare che a Joyce piacessero moltissimo, ma ovviamente non è stato l'unico. Stendhal e poi Svevo e Saba, che sono nati qui. Molti di questi caffè sono rimasti uguali. Da non perdere il Caffè degli Specchi, famosissimo in Piazza Unità d'Italia, il Caffè Tommaseo, il più antico di Trieste, il Caffè San Marco e il Caffè Pirona, dove assaggiare o comprare dolci tipici. Di arrivare a Trieste o dopo, se siete più comodi, potrete approfittarne per fermarvi a Palmanova, la cosiddetta città stellata, provincia di Udine che si trova più a nord. Fu pianificata dai veneziani alla fine del 1500. Ha una pianta poligonale con 9 punte e andate anche a vedere solo le foto dall'alto, che sono un vero spettacolo, e anche guardarla attraverso Google Earth fa un certo effetto. Palmanova ha tutte le caratteristiche per essere girata senza guida, anche perché si tratta comunque di un comune di poco più di 5.000 abitanti, molto piccolo, ma davvero un gioiello. È infatti un piccolo museo a cielo aperto, testimonianza dell'importanza militare che ha ricoperto nei secoli passati. Le porte di accesso sono tre: Porta Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia, a seconda della direzione verso cui sono orientate. La piazza principale è Piazza Grande ed è proprio nel centro, a pianta esagonale, e vi si affacciano tutti gli edifici più importanti. Due i luoghi d'arte imperdibili. Il primo è il Museo Civico e Storico della città. Per chiunque voglia conoscere la struttura di Palmanova e il sistema di fortificazioni. Ed è un percorso storico per capire, per vedere quali sono stati i cambiamenti nelle quattro tappe della città: la fase veneziana, quella napoleonica, quella austriaca e infine quella italiana. Il secondo museo è quello storico militare, e qui ci sono tutti i documenti che testimoniano il ruolo di Palmanova dal 1593 fino alla Seconda Guerra Mondiale. Io sono stata a Trieste due volte, ne sono innamorata, quindi sono molto curiosa di ascoltare, come te e come gli ascoltatori, i consigli del nostro Salvatore Carruba. L'Occhio di Dio di Giulio Leoni, pubblicato da Nord, ci porta alla scoperta di Palmanova da parte di Galileo Galilei, che gli capiterà nel 1605 nel romanzo per completare la realizzazione dei bastioni della meravigliosa città murata. Ma qui Galilei continuerà le sue riflessioni sulla fisica e su un misterioso oggetto, appunto l'Occhio di Dio, con delle riflessioni che giungeranno a un punto di svolta in una sorta di vertice che a Palmanova si svolgerà tra veneziani e inviati ottomani. Se consideriamo Palmanova come il vertice inferiore di un triangolo, possiamo trovare a nord-ovest Colloredo di Montalbano, patria di Ippolito Nievo, l'autore di uno dei romanzi più belli e forse meno letti dell'Ottocento, Le confessioni di un italiano, pubblicato da Rizzoli e da Giunti. Invece a nord-est troviamo Cividale del Friuli, dove è ambientato il romanzo pubblicato l'anno scorso da Cristina Battocletti, La mantella del diavolo, pubblicato da Bompiani, che è un giallo psicologico che ci fa scoprire i meandri oscuri della provincia italiana. A Trieste non si può sfuggire al ricordo di Italo Svevo, uno dei grandi, grandissimi autori del Novecento. Basti pensare alla coscienza di Zeno, che è uno dei libri più importanti del secolo scorso, che trovate nelle edizioni di Mondadori di Newton Compton. Svevo, come ricorderete, era anche molto amico di James Joyce, che a Trieste insegnò l'inglese e abitò per circa 10 anni, tra il 1905 e il 1915. E proprio Svevo ispirò alcune pagine del capolavoro di Joyce, cioè l'Ulisse, i cui primi 3 capitoli furono scritti a Trieste. E a Trieste Joyce compose il dramma Esuli, pubblicato da Eir, e alcuni racconti di Gente di Dublino che potete trovare nelle edizioni di Feltrinelli. Poi non dimentichiamo un grande poeta, Umberto Saba, le cui poesie sono raccolte da Einaudi. Saba pubblicò anche un coraggioso romanzo, anzi non lo pubblicò perché il libro fu pubblicato postumo, scrisse un coraggioso romanzo su una sorta di iniziazione omosessuale. Il romanzo si chiama Ernesto e è ambientato nel Trieste di fine Ottocento e, come vi dicevo, fu pubblicato da Einaudi soltanto nel 1975. Di Mario Kovacic vi segnalo Trieste sottosopra, 15 passeggiate nella città del vento, pubblicato dalla Terza. Anna, è sempre precisissimo Salvatore, quindi Trieste e Palmanova, così come ne abbiamo parlato nel nostro approfondimento. E così come ogni puntata dedicata all'Italia, anche in questa vi segnaliamo stranezze, cose particolari da fare in giro per lo stivale. Se siete amanti delle tragedie greche, vale la pena capitare a Taormina o a Siracusa e accaparrarsi un biglietto per assistere a Elettra di Sofocle o all'Alcesti di Euripide, la Fedra di Seneca, nella cornice degli anfiteatri romani. Un salto indietro nel tempo. Italia, terra di Terme, per lo più a pagamento. Ma se vi trovate in Toscana e avete voglia di provare, a Saturnia esistono anche le terme libere, vicino alle sorgenti, che utilizzano le stesse acque termali degli istituti termali a pagamento. Nota bene, potete andarci in qualsiasi orario. Molto suggestivo il bagno notturno. Si tratta di acqua sulfurea, dunque dopo il bagno avrete il caratteristico odore di zolfo. Amanti del cioccolato, unitevi e puntate su Perugia. Ogni anno a ottobre, di solito il secondo weekend del mese, nel capoluogo umbro va in scena il Festival Internazionale del Cioccolato. È un appuntamento importante per chi lavora con questo prodotto. Per tutti gli altri, chili e chili di cioccolato di ogni genere, forma e sapore da provare e comprare. Per questo appuntamento, il Palio di Siena, dovrete muovervi per tempo, perché non è facile assistere. 2 gli appuntamenti, il 2 luglio in onore della Madonna di Provenzano e il 16 agosto in onore della Madonna Assunta. Uno spettacolo unico, a volte drammatico. L'occasione per ammirare una delle piazze più belle del mondo, Piazza del Campo. Amanti dell'altitudine, la Mongolfiera vi aspetta. A Milano, Roma, Siena e Lucca. Questi i centri più organizzati. Ma non escludiamo che ci siano altri punti che offrono questo servizio. Passeggiate in aria con prezzi intorno ai 200 euro per circa 1 ora di volo. Se siete sportivi, in Italia si può anche fare rafting. Magari gli scenari non saranno altrettanto spettacolari rispetto a quelli americani, ma anche in Umbria, per esempio, può valerne la pena. A Serravalle di Norcia, sul fiume Corno. A questo punto, Anna, dobbiamo necessariamente fermarci. Solo qualche istante, restate con noi. Il mondo visto dai ragazzi. In questi mesi Radio 24 ha dato spazio alle voci di Radio Immaginaria, una web radio gestita da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. L'appuntamento dal vivo è per il 10 e 11 settembre con la Team Parade a Castel Guelfo di Bologna. Un meeting sul lavoro spiegato dagli adolescenti. Ci sarà anche un evento speciale con il nostro Federico Taddia. Info su radio24.it. Globetrotter 24. Ben ritrovati, come detto, da nord a sud siamo stati tra Palmanova e Trieste. Io, Valeria, ti porto al mare, ti porto nel profondo sud dell'Italia, io ti porto a Lampedusa e Linosa. Your position. 33, yes. 5-1. And then under. Okay, 80-52. Okay, so save your battery, I will call you back. Questo è un po' l'anno di Lampedusa, perché lo straordinario film Fuoco a Mare ha premiato l'isola, ha premiato la sua gente, un film straordinario che volutamente però non ti fa vedere le bellezze del posto, la spiaggia dei conigli, tutta la parte turistica dell'isola, che alla fin fine è uno scoglio in mezzo al mare, uno scoglio però che trasuda umanità, quella che si vede nel film. Lampedusa è una terra di confine tra due mondi, è un luogo assolutamente magico. Io a Lampedusa sono stata più di una volta. A Lampedusa c'è un aeroporto collegato con quelli di Palermo e di Catania, quindi è necessario, per chi non arriva dalla Sicilia, fare scalo in una di queste due città. Prima c'erano dei voli invece diretti anche da Milano. Con la mia paura di volare probabilmente avrei sofferto a vedere l'aeroporto piccolissimo di Lampedusa, a vedere l'aereo scendere, avrei pensato sicuramente che non riuscisse a centrare la piccola pista dello scalo. Io ci sono arrivata via mare, i collegamenti marittimi sono operati dalla Compagnia delle Isole e si può, insomma, arrivare anche come ho fatto io, partendo da Porto Empedocle e navigando poi tutta la notte. Si arriva il giorno dopo, l'isola è molto lontana, è l'estremo sud d'Italia. Lampedusa è talmente piccola, pensa, che c'è una sola strada principale, via Roma, che è l'unica strada che devi conoscere, perché poi tutte le indicazioni che ti daranno saranno sempre relative a traverse, parallele, incroci di questa strada, che è proprio il cuore dell'isola. Lampedusa va vista dal mare, si può scegliere tra due soluzioni: noleggiare una barca oppure fare una gita organizzata. Quest'ultima è sicuramente l'ipotesi migliore, perché affittare una barca vuol dire spendere tanto se si è in due, meglio in quattro, comunque dividendo le spese, e poi comunque conviene anche chiedere al pescatore che noleggia appunto l'imbarcazione se è il caso di imbarcarsi in una navigazione da soli per circumnavigare l'isola. Io l'ho girata, ripeto, con la motocicletta, si possono noleggiare anche delle auto, bastano comunque degli scooter. È chiaro che se volete fare diving, per le attrezzature che dovete trasportare, sicuramente la soluzione migliore è quella di noleggiare un'auto sull'isola. Ai bambini piace molto Lampedusa, piace soprattutto la sua semplicità, questo contatto con il mare che è un contatto totalizzante. L'isola ha due riserve, marina e terrestre. C'è una specie di testuggine marina protetta, che peraltro abbiamo già incontrato, che è la caretta caretta, e c'è un centro di raccolta in via Grecale, appunto relativo alla protezione di questa tartaruga che nidifica proprio sulla spiaggia dei conigli. Che cosa si può fare? Lampedusa è una vacanza semplice, si può fare il cosiddetto struscio, la camminata avanti e indietro su e giù per via Roma, curiosare nei negozi dell'isola, passeggiando all'interno dell'isola pedonale. È una vacanza semplice, non è una vacanza discotecara, è una vacanza di tramonti, è una vacanza di mare, è una vacanza di assoluta e semplice bellezza. La spiaggia più famosa è quella dei Conigli, che è tra le spiagge più belle in Europa e in Italia e sembra la terza in assoluto tra le spiagge più belle del mondo. I colori che vedi nelle foto sono quelli veri. La spiaggia però non è l'unica bella dell'isola, ce ne sono altre altrettanto spettacolari, spesso raggiungibili solo via mare e conosciute a pochi: Cala Madonna, Cala Pulcino, Mare Morto o Guiccia lungo la costa meridionale. Da Lampedusa puoi anche andare a Linosa, che è completamente diversa. Ecco, l'arrivo a Linosa ti fa capire come due isole così vicine in mezzo al mare possano essere tanto, tanto diverse. Linosa è una piccola Svizzera in mezzo al Mediterraneo, non per i soldi o per le banche, ma è una piccola Svizzera per la pulizia quasi maniacale degli isoliani. Linosa è opposta a Lampedusa, è montuosa, è verdeggiante, nera e affascinante nei colori, nell'architettura. Ci sono le case tinteggiate di colori pastello che si integrano poi peraltro a perfezione con il nero lavico dei monti. Linosa veramente emerge dal mare come una piccola perla nera, è un'oasi di tranquillità e quindi è sicuramente un'altra tappa che mi sento di consigliarti. Anna, io non sono mai stata a Lampedusa. È una grave mancanza, perché sì, Lampedusa è davvero bella. È una gravissima mancanza, sono stata a Pantelleria ma Lampedusa mi manca e quindi, proprio perché mi manca, ancora di più attendo le segnalazioni del nostro gastronauta Davide Paolini. Partendo da Trieste non posso non parlare di un territorio che mi è molto caro, che è il territorio carsico. La zona del Carso, che è quella che confina con la Slovenia, oggi è un'area alla ribalta soprattutto per i vini. Ci sono questi vini molto particolari e qui mi permetto di andare su segnalazioni vinicole perché secondo me saranno la scoperta dei prossimi anni, e c'è un vino bianco in particolare che si chiama Vitovska. Vitovska è un vitigno autoctono che è stato riproposto e ritrovato da moltissimi produttori di quell'area, i piccolissimi produttori che appunto lavorano in una zona molto difficile e quindi sono dei pionieri, degli eroi della vendemmia e degli eroi della viticoltura, perché hanno riproposto questo vitigno che sta avendo un grandissimo successo. E un altro vino sempre rosso si chiama Terrano, è un vino rosso molto particolare che in estate va benissimo servito fresco e quindi può essere abbinato probabilmente anche con il pesce, e c'è una cucina molto, se vogliamo, molto particolare, quella diciamo che va nella zona tra Trieste e tutto il Carso. È una cucina molto a base di pesce, perché abbiamo il mare vicinissimo e quindi ci sono delle zuppe, cioè delle zuppe di pesce molto intriganti, molto sapide. Non manca ovviamente la carne, non manca la carne di maiale, ma soprattutto sono le zuppe, perché in quella zona lì si trovano diversi pesci, quindi la zuppa diventa uno dei piatti principali. Se scorriamo e poi arriviamo a Lampedusa, bene, nelle isole siciliane c'è una cucina molto, molto particolare, molto profumata e anche molto colta, direi, perché è una cucina molto elegante, molto gentile, e soprattutto nelle isole ci sono alcune peculiarità che vanno, ad esempio, vista le aree vicine ai Mediterranei, il couscous si trova molto facilmente, non a base di montone come da altre parti. Nelle isole si trova un couscous soprattutto a base di pesce. Lampedusa è una delle poche isole che non ha grandi vini, mentre se vogliamo parlare anche delle altre isole siciliane, a cominciare dalle Lipari, da Legati, ecco lì si trovano anche dei vini molto particolari che risentono molto del vento del mare, quindi della brezza marina, e ci sono dei bianchi veramente molto ma molto eccellenti. La Sicilia poi è una terra, e è un po' ovunque sparsa, che si riconosce soprattutto per i dolci, perché c'è questa lavorazione della mandorla che è molto particolare, quindi ci sono le granite, ci sono sicuramente i gelati, e soprattutto consiglio la colazione fatta con la brioche e in mezzo alla granita alle 8 del mattino con un cappuccino, è veramente il miglior modo per svegliarsi. E siamo al termine anche di questo appuntamento da nord a sud, da Trieste sino a Lampedusa, con le nostre segnalazioni turistiche, letterarie, le nostre segnalazioni enogastronomiche. Valeria, dobbiamo solo ricordare il nostro indirizzo email globetrotter24@radio24.it e augurare a tutti un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.